Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Siamo arrivati a venerdì 3 febbraio con alcuni titoli. Intanto le notizie principali sono: per il Sole 24 Ore, Padoan, il ministro dell'economia, che risponde all'Europa. La correzione dello 0,2% prima del DEF, questo è il titolo di prima pagina del Sole, e così il Giorno, il governo cede al diktat dell'Unione Europea. Poi la vicenda che riguarda il sindaco di Roma, Virginia Raggi. Interrogata a lungo, spunta questa polizza vita a suo nome. Corriere della Sera, Raggi, il caso della polizza. Così Repubblica, nuove accuse, Raggi in bilico. Per il Fatto Quotidiano, Raggi, il mistero della polizza. Il Messaggero, una polizza in guai alla Raggi, fino ad arrivare al Giornale che in maniera molto secca titola «Una polizza vita uccide la Raggi». Vedremo altre aperture, c'è Avvenire per esempio sull'accordo Italia-Libia, stop agli irregolari, questa è un'altra notizia che trova spazio sui giornali, anche per il Manifesto e l'apertura, muro di Malta. Il tema, vale a dire, quello dell'immigrazione. Ma voglio partire dall'approfondimento di alcune notizie, a cominciare da quella di Vasto. Ce ne siamo occupati anche ieri e vi annuncio tra l'altro che il procuratore capo di Vasto sarà nostro ospite alle 8:20. Il tema è quello della giustizia fai da te, perché come sapete un ragazzo di 22 anni, Fabio Di Lello, è stato ucciso dal marito di Roberta Smargiassi. Roberta Smargiassi a sua volta era stata uccisa in un incidente stradale da Fabio Di Lello. E allora tutto il paese si interroga. Intanto sui social, io l'avevo detto, gli eroi da tastiera hanno già decretato che ha fatto bene, la giustizia fai da te. Insomma, il classico clima all'italiana. C'è lo scontro sui tempi dell'inchiesta, così titola pagina 16 il Corriere della Sera, racconta con Virginia Piccolillo. Fabio Di Lello ha trascorso la notte nel carcere e stamane il fascicolo che lo riguarda sarà inviato al GIP dal pubblico ministero Gabriella De Lucia. Domani si dovrebbe tenere l'interrogatorio di garanzia per l'omicidio. Una situazione che rende il clima infuocato nella cittadina di Vasto, dove il gesto dell'ex calciatore viene in parte giustificato, anche dal suo avvocato. Il suo avvocato che dice: Italo De Lisa, dopo avere ucciso Roberta, non ha mai chiesto scusa né mostrato pentimento, anzi era strafottente con la moto, dava fastidio al marito di Roberta, quando lo incontrava accelerava sotto i suoi occhi. Il legale, insomma, accusa quella famiglia, non si era mai scusata e il clima è degenerato. Per la verità, oggi su Repubblica, a pagina 19, c'è un'intervista anche molto toccante al padre di Italo De Lisa, ucciso appunto da Fabio Di Lello. L'intervista è di Paolo Brera, che parla con Angelo De Lisa, descritto con lo sguardo perso nel vuoto. Io direi alla persona che ha ucciso mio figlio: hai ammazzato un morto, l'odio non porta a niente. L'unica cosa che dovevano fare Italo e Fabio era incontrarsi, parlarsi, abbracciarsi, piangere insieme. Magari sarebbero diventati amici, erano due persone buone, insieme avrebbero cancellato questa maledetta campagna d'odio che seppellirà mio figlio e distruggerà del tutto anche lui. Tutti noi da allora abbiamo sempre convissuto col dolore per la morte di Roberta. Ne siamo ancora addolorati, sa? Anche oggi, dopo quello che è successo. E allora Repubblica chiede: come stava Italo, come stava suo figlio dopo quell'incidente? Stava male, malissimo. Chiunque di noi, se si trovasse in una situazione così tragica, come starebbe? È un inferno, aveva paura a uscire di casa, si era chiuso in se stesso. Poi un giorno mi ha detto: non ce la faccio più, voglio uscire, ho bisogno di aria. Che vita faceva? Ma c'era qualche ragazza che gli girava intorno, ma nessuna fissa, nessuna che gli stesse accanto, nessuna che l'aiutasse. D'altronde in questa situazione aveva altro a cui pensare che l'amore. E risponde anche alle accuse di avere in qualche modo infastidito il marito della donna. Ma quando mai? Ma quale motorino? Girava in bicicletta. E poi racconta ovviamente dell'incidente di qualche tempo fa. Dice: mio figlio lo rivedeva tutte le notti, viveva quelle immagini, rivedeva quella notte. E quella donna soprattutto, quelle immagini, quella scena orrenda non si dimenticano, ma io gli dicevo forza, coraggio Italo, piano piano passerà, cercavo di tenergli sul morale, i medici mi dicevano di aiutarlo, rischiava di chiudersi definitivamente in se stesso, nessuno può sapere cosa si prova se non lo si vive. Certo, ci sono anche le polemiche sulla presunta lentezza della giustizia. Sentiremo il procuratore che ci spiegherà, immagino, come ha già fatto anche pubblicamente, perché Italo De Lisa non fosse in carcere, anche se l'accusa per lui era di omicidio stradale. Vorrei saltare su un'altra notizia che trovate sui giornali oggi, ben sviluppata, è da un paio di giorni che Avvenire, per la verità è da un po' di tempo, Avvenire da sempre è molto sensibile a questo argomento, ma da un paio di giorni è tornato ad occuparsi Avvenire della vicenda del gioco d'azzardo legalizzato. Oggi il titolo che trovate: azzardo una settimana per trovare l'intesa. L'intesa è quella tra governo ed enti locali. Antonio Maria Mira racconta a pagina 6 di Avvenire che si cerca un'intesa sul riordino del settore del gioco d'azzardo. Il sindaco di Bari, che è anche il presidente dell'ANCI, cioè l'Associazione dei Comuni, Antonio De Caro, dice: siamo davvero arrivati all'ultimo miglio. Le ultime perplessità degli amministratori locali sulla bozza presentata dal governo sono relative ai poteri dei sindaci sulle distanze delle sale gioco dai luoghi sensibili. Però, racconta Avvenire, i sindaci incassano una fortissima riduzione delle macchinette e anche delle stesse sale, meno 30% di macchinette, meno 50% di sale giochi. Ora c'è una settimana di tempo per le ultime correzioni sulla questione delle distanze dai luoghi sensibili, e su questo ancora i sindaci intendono non mollare. È un articolo che però stride un po' con l'inchiesta Bisca Italia di Ferruccio Sansa sul Fatto Quotidiano a pagina 9. Ferruccio Sansa racconta l'azzardo del governo, mini casinò di quartiere. Cioè, da una parte su Avvenire si legge di una trattativa aperta con i sindaci che non mollano. Dall'altra parte, sul Fatto Quotidiano, si legge di comuni in rivolta, il settore viene sottratto al nostro controllo. Il primo a lanciare l'allarme è stato il sindaco di Genova, Marco Doria, che si è rivolto all'ANCI dicendo: siamo stati il primo grande comune nel 2013 a emanare un regolamento per contenere la diffusione del gioco d'azzardo. Genova ha affrontato finora vittoriosamente decine di ricorsi, ha iniziato a registrare una contrazione dell'azzardo in città. Ora l'ANCI, cioè l'Associazione dei Comuni, appunto, deve farsi interprete di questo importante impegno e salvaguardare le potestà delle autonomie locali. È una battaglia di civiltà e sanità pubblica. Comunque Ferruccio Sansa racconta che lontano dall'accordo invece ci sono comuni che lamentano una mancanza di controllo nei confronti di questo settore. Due notizie veloci di cronaca. A Padova, ricordate la vicenda di Don Contin, le orge. Peter, appena dico le orge Padova, si è risvegliato. Dice: perché Don Contin mi guardava con due occhi. Don Contin, le orge a Padova presunte. Ecco, quello allora. Bene, racconta Avvenire che Don Contin va verso la sospensione a divinis. Dunque non sarà evidentemente più prete, con il Papa che ha telefonato al vescovo di Padova dicendogli sii forte. Il vescovo Monsignor Claudio Cipolla, durante la conferenza stampa di ieri, ha detto: abbiamo maturato la certezza di gravi responsabilità morali di Don Contin, comportamenti inaccettabili per un prete, un cristiano e anche per un uomo. E dunque pare che andrà verso la sospensione a divinis. Dunque pare tutto vero, accertato anche dalla Chiesa. Dall'altra parte, vicenda di cronaca giudiziaria, torna alla sbarra Ovidio Bonpressi. A questo Peter, Ovidio Bonpressi, 70 anni, già condannato per l'uccisione del commissario Luigi Calabresi il 17 maggio del 1972 a Milano. Racconta il giornale con Stefano Zurlo, per la verità riprendendo un articolo della Nazione: l'assassino di Calabresi torna in tribunale, ha picchiato il vicino di casa. Questa è una vicenda totalmente diversa, sicuramente anche meno grave di quella per cui è stato condannato, con una vicenda giudiziaria che ha segnato anche gli ultimi 30 anni della storia giudiziaria non italiana. Stavolta poca cosa, come scrive Stefano Zurlo sul Giornale a pagina 11, troppo in coda al suo curriculum, ma nel 2014, nel corso di una rissa col vicino di casa a Massa, dove abita da una vita, avrebbe sferrato un pugno al naso dello sfortunato signore, spedendolo in ospedale con una prognosi di 20 giorni, disseppellendo così l'album di quegli anni tragici, Ovidio Bonpressi in tribunale. Questo racconta il Giornale. Va bene, siamo all'articolo che mi fa della giornata. E tra poco lo vedremo. Padoan che risponde all'Unione Europea. Padoan che dice la manovra correttiva va fatta. Padoan che ieri era a relazionare il Senato su questo importante, nodale punto di svolta con l'Unione Europea. E allora, come racconta Dino Martirano, ci sarà stata un'aula del Senato, come dire, gremita, affollata, tutti a pendere dalle parole del ministro. Cosa faremo con l'Europa? Pagina 11 del Corriere della Sera, il duello con l'Europa, in aula soltanto 13 senatori per ascoltare il ministro. C'erano solo gli interroganti, quelli che hanno fatto l'interrogazione, tutti gli altri senatori spariti, dissolti come neve al sole, compresi gli altri ministri, i sottosegretari che hanno lasciato volentieri a Padoan l'intero banco del governo. E la presidente di turno, Linda Lanzillotta, ha regolato un dibattito con 13 senatori, concedendo la parola agli autori delle interrogazioni e infine al ministro, che ha esordito così: signora presidente, ringrazio gli onorevoli senatori per le loro osservazioni. Insomma, 13, pochini, 13. Non è possibile una roba del genere, vergognatevi, cazzo! Alessandro Milan, l'accisa dell'informazione. Oh, come sono contento di essere definito una bella accisa sulla benzina o sulle sigarette. Così mi vorrete molto molto bene. Allora, se dobbiamo parlare di politica, le due notizie più importanti sono quello che succede all'interno del Partito Democratico, le elezioni e soprattutto l'interrogatorio a Virginia Raggi, sindaco di Roma, oltre alla questione Padoan, Unione Europea, che vedremo tra poco. Cominciamo dal PD e Renzi, perché oggi c'è un colloquio sul Corriere della Sera a firma Massimo Franco con l'ex premier, che anche ieri è apparso al TG1. Ma un Renzi che si evince da questo colloquio comincia a fare marcia indietro su alcuni aspetti, per esempio quello del votare. Titolo del colloquio: il 4 dicembre era un rigore e l'ho tirato malissimo, posso non fare il premier, parla il segretario del PD. E Massimo Franco racconta: fa un po' impressione sentirgli dire non posso più permettermi di essere assertivo, oppure so che non posso più dettare la linea da solo. Ma certamente con una punta di rabbia, ma Renzi ora sembra disposto a trattare. Non mi va di essere raffigurato, dice, come una persona rosa dalla voglia di andare a elezioni anticipate per prendersi la rivincita. So che le elezioni non possono essere il secondo tempo del referendum. Quando si perde a calcio non ci si prova con la palla a nuoto. Ho avuto la possibilità di tirare un rigore il 4 dicembre e me l'hanno parato. Anzi, 41% a 59 significa che l'ho tirato malissimo. E ora comincia una nuova fase politica. Racconta che le interviste, le dichiarazioni, l'intervista per esempio del ministro Calenda che dice non si voti, l'uscita di Giorgio Napolitano, non si voti, suo grande alleato, insomma tutto ciò gli intimano un alto là. E allora dice Renzi, se si celebra il congresso si va l'anno prossimo, altrimenti si fanno le primarie, non ho problemi a fare il congresso, volevo farlo a dicembre ma me l'hanno impedito e ora lo invocano, ma lasciamo stare. Continuo a fare il parafulmini di tutti. E poi ammette, per la prima volta potrei non fare più il premier. Il clima politico è cambiato, dice Renzi, sono il primo a esserne consapevole, so bene che se anche ottenessi un grande risultato, un 37 o addirittura un 42% di voti, non esisterebbero più le condizioni per avere un governo libero di fare le cose che ho in mente. E dunque, prossima volta magari tocca a Gentiloni o Del Rio. Questa è la posizione di Renzi. E se si va sulla stampa, a retroscena la firma Carlo Bertini, trovate a pagina 11, si racconta di un Renzi ancora più sfinito. Questo è proprio l'aggettivo utilizzato, nonostante qualche deputato dica l'ho incontrato, era molto tonico. Sentite qui, nella chat con amici, avrebbe scritto 2 giorni fa di sera: mi sono stufato, mollo tutto. Certo, questo sfogo come è stato accolto dagli amici? Alcuni hanno reagito: ma sì, lui è così, tanto gli passa tra un'ora. Altri più preoccupati che Renzi fosse al capolinea, provato da una sfilza di colpi, dalla rivolta dei deputati contro la sua uscita sui vitalizi, dal Bersani proscissione, dal Napolitano contro il voto anticipato. Alcuni amici dicono: beh, forse allora molla davvero. Poi ecco il contropiede: al gazebo, primarie di coalizione il 25 marzo. Questa è la linea, secondo un retroscena, dunque non confermato, sulla stampa. Renzi sarebbe pronto a questo: prima sono stufo, mollo tutto, e poi il contropiede. Facciamo le primarie di coalizione e anche una data buttata lì, 25 marzo, che poi vuol dire tra un mese e mezzo. Riguardo a Renzi c'è una vicenda che il Fatto Quotidiano sta approfondendo da 2 giorni e è relativa ai regali che ha ricevuto quando era premier, da capi di Stato, da delegazioni estere in visita, e non avrebbe mai restituito. Questo almeno dice il Fatto Quotidiano. Sono spariti i Rolex, soprattutto i Rolex. Matteo, sono spariti i Rolex. Parola di Palazzo Chigi, titolo di pagina 5 del Fatto Quotidiano, racconta Paola Zanca. L'unico documento che l'amministrazione dichiara di possedere consiste in un verbale afferente la consegna di doni relativa a soggetto estraneo alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Eccola qui, nero su bianco, la conferma che a Palazzo Chigi, dunque la sede del governo, dei Rolex regalati dall'emiro saudita a Renzi non c'è traccia. O meglio, una traccia c'è ed è l'unico orologio restituito dopo la baruffa di Riyadh, quello dell'interprete arabo Reda Hammad, e gli altri sono stati presi dalla scorta del premier e sono spariti. Il Fatto Quotidiano, insomma, accusa. Dove sono i regali? Sapete che è una questione di legge da rispettare, cioè i regali oltre un certo valore non possono essere accettati, o meglio devono essere dichiarati e poi restituiti. E invece dove sono i regali? Si parla anche di una bicicletta regalata dal premier giapponese, una bicicletta di grande valore. Dove sono questi regali una volta che Renzi ha lasciato Palazzo Chigi? Vi lasciamo con questa domanda su Renzi, mentre le domande devono essere state molto più lunghe, molto più approfondite, molto più incalzanti dei magistrati a Virginia Raggi, sindaco di Roma, che è stata 8 ore dai PM, abbiamo fatto sentire anche all'uscita, è uscita tranquilla, dicendo è tutto a posto, sono serena. Certo, è deflagrata nel frattempo la notizia di questa polizza vita firmata da Salvatore Romeo, cioè il suo capo di segreteria, a suo nome, a beneficio di Virginia Raggi, valore 30.000 euro, firmata in campagna elettorale e, guarda caso, questa è l'accusa sui giornali, una volta che il sindaco, che Virginia Raggi è diventato sindaco, ha nominato Salvatore Romeo e lo stipendio di Salvatore Romeo si è molto amplificato dopo questa nomina. E allora scoppia il caso Romeo. Un anno fa stipulò una polizza da 30.000 euro a favore della sindaca, racconta il Corriere, la chiama sindaca e quindi sono costretto a leggere sindaca, ahimè. Dopo la vittoria alle urne fu promosso. Doveva spiegare una lunga serie di fatti, racconta il Corriere della Sera a pagina 6. Se abbia convinto si saprà a breve. Intanto, nel corso dell'interrogatorio che si è svolto nella struttura di polizia alla periferia della città per garantirle massima riservatezza, Virginia Raggi ha dovuto rispondere a nuovi interrogativi su questa polizza vita da 30.000 euro che Salvatore Romeo le ha intestato nel gennaio 2016, 6 mesi prima dell'elezione in Campidoglio. La sua risposta, anche all'uscita ai giornalisti, non ne sapevo nulla. Tra l'altro parla, un po' su tutti i giornali, Alessandra Bonaccorsi. E voi direte: e chi diavolo è Alessandra Bonaccorsi che spunta? Alessandra Bonaccorsi è una consigliera municipale eletta col Movimento 5 Stelle, poi è uscita una volta eletta, ma soprattutto è l'ex fidanzata di Salvatore Romeo, e dice: anch'io sono stata intestataria di una polizza, anche a me Salvatore Romeo ha intestò una polizza tempo fa, peraltro da 10.000 euro. E quindi c'è anche questa rivalità femminile, se volete, perché dice: forse da fidanzata meritavo meno di Virginia Raggi, ma la parola chiave è questa, fidanzata, cioè io ero fidanzata con Salvatore Romeo, abbiamo avuto una storia. E quindi un giorno lui si è presentato da me dicendomi: guarda, tieni questi documenti, ho messo a tuo nome delle cose, se mi dovesse succedere qualcosa. Mi disse che lo aveva fatto anche per altri amici stretti, l'ho trovato un bel gesto di attenzione, conosceva la mia situazione di madre vedova, lavoratrice e con un bambino da crescere da sola. E quindi mi ha fatto questa polizza. Certo, però, in una serie di interviste, sapevo della mia polizza, non capisco quella di Raggi. Pagina 7 della Stampa. Alessandra Bonaccorsi, ex fidanzata di Romeo. Salvatore guidava Virginia e anche il vice sindaco Frongia, poi è stato ricompensato. Vabbè, ora che succederà a Virginia Raggi? Questo è il grande mistero, la grande spiegazione. C'è chi dice deve dimettersi, c'è chi anche all'interno del Movimento 5 Stelle comincia a mormorare in maniera abbastanza rumorosa. Fortunatamente noi abbiamo colui che dà sempre le risposte e ci dirà in anteprima che succederà al sindaco di Roma. È il nostro Mauro Meazza. Buongiorno Mauro. Buongiorno, buongiorno. No, ma oggi non vorrei rivelare cosa succederà al sindaco di Roma. Bene, teniamocelo per due giorni. Poi dopo invece guarda, ovviamente sono ebbro di contentezza per l'andamento di Telefisco, come puoi immaginare, caro Alessandro. Però... caro, soprattutto perché proprio ieri a Telefisco finalmente è stato annunciato l'emendamento che consentirà di conciliare i nuovi bilanci con le regole fiscali. Ora, so che tu eri abbastanza impermeabile a questo problema, eri impermeabile, ammettilo. Non avevo l'impermeabile. Però un milione di imprese, forse di più, non erano affatto impermeabili. Immaginati i professionisti come fossero permeabili invece al problema. Ecco, finalmente questa permeabilità è stata colta, l'emendamento è stato presentato, ma oggi sezione speciale di norme e tributi, 4 pagine di risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate a Telefisco, quindi è un giornatone, diciamo un numero tutto, da collezione tutto di norme e tributi, non solo da leggere religiosamente, ma io direi da collezionare. Naturalmente, prima di farti gli auguri di rito per mezzogiorno e mezzo di domenica. Sì, ti mezzogiorno e mezzo. Poi invece domenica sera mi pare che tu abbia un impegno. Domenica sera siamo tutti al Teatro Manzoni di Milano. Forza, vieni anche tu, paga biglietti, paga, canta. Va bene, allora noi adesso ci procureremo i biglietti, speriamo ne siano rimasti ancora. Speriamo ci siano rimasti, se no dovete suonare da fuori, è un po' complicato, vi mettiamo un amplificatore che in sì, sala. Magari fuori per, cioè sotto al freddo. La galleria lì del Manzoni. No, si può al freddo. Ma la fermata della metropolitana, sì, va bene. Allora prima arrivaci però preparato, mi raccomando domani, leggi Plus avidamente come al solito, sempre. Sai che Plus è il nostro settimana di finanza e risparmio, perché domani si parla di nuovi sistemi di pagamento, perché le banche, come dire, hanno un po' di problemi, ma ci sono altri metodi di pagamento che si stanno affermando, ma quanto ci si può fidare? Leggi Plus e lo capirai. Naturalmente molte altre cose, già hai citato, come dire, l'affollato seguito con cui è stato appunto ascoltato il ministro Padoan per un problemuccio da 3 miliardi rotti. Però oggi naturalmente tutti i dettagli di quello che si è capito dalle risposte del ministro sono sul Sole 24 Ore, pagina 2. L'accisa, però ha escluso aumenti dell'aliquota IVA, ad esempio, ma leggi tutti ma i guarda, particolari. Ma tra poco li leggerò anche in onda, ho deciso molto, e me ne compiaccio, li leggerai come devi fare quotidianamente. Soltandosi delle primissime pagine. Naturalmente oggi è venerdì, quindi moda 24, tra l'altro parliamo dell'export di cosmetici, perché l'export di cosmetici è abbastanza importante per noi. E poi ti segnalo, in ultimo, ma non per questo meno importante, l'Invalsi. Hai presente le prove Invalsi? Sì, come no. Oh, so che molti ragazzi ci ascoltano andando verso la scuola. Allora, è avviato il progetto, ci saranno queste prove in quinta su italiano, matematica e inglese. Sarà una buona notizia? Chissà, per intanto, traffico! Andro Milan, lo spacca pettini dell'informazione. E va bene, che vuol dire lo spacca pettini? Tu hai capito, Peter? Per il ciuffo ribelle, ma poi ragazzi, va bene tutto, noi prendiamo tutto, cari ascoltatori, le vostre sigle al 349-238-6666, mandatele in qualità audio perfetta come questa ascoltatrice via WhatsApp. Allora, diceva Mauro Meazza che giustamente Marco Rogari e Gianni Trovati raccontano i dettagli a pagina 2 del Sole 24 Ore di quello che vuole fare il governo italiano per rispondere all'Unione Europea. Unione Europea che ci chiede una correzione dello 0,2% del PIL, vale a dire 3,4 miliardi di euro. Caro Peter, bisogna trovare 3 miliardi e 400 milioni, vedi se puoi mettere mano al portafogli per qualcosa. Comunque, racconta il Sole, è un calendario in due tempi, ma stretto, destinato ad aprirsi nelle prossime settimane con un decreto correttivo e a chiudersi entro il mese di aprile. Il percorso per la correzione dello 0,2% del PIL poggia su una serie di misure di massima già elaborate dai tecnici del Ministero. Il menù a tre portate, come se fosse una bella, senti che bello, il menù a tre portate. Misure sulle entrate, lotta all'evasione devono portare il 75% della correzione, l'ultimo quarto è affidato ai tagli di spesa, alle entrate insomma è assegnato il compito di coprire la fetta più importante dell'aggiustamento con un conto da 2,55 miliardi. Un miliardo, ha spiegato Padoan, arriverà dall'estensione delle misure antievasione che si sono mostrate già efficaci. Tra le mosse allo studio, l'applicazione del reverse charge, lo split payment, tutte quindi riguardanti l'IVA, e poi si sa, dai cari ascoltatori, alla fine un po' di accisine vi dovranno anche capitare, a tutti noi, mano al portafogli, accise sulla benzina e via gli aumenti, questo è abbastanza un classico. Sentite, ieri è stata una giornata, si spera, anche abbastanza importante per un accordo tra Italia e Libia sul fronte immigrazione. C'era il premier libico Fayez al-Sarraj a Roma, è stato firmato questo accordo, ovviamente il titolo è... come sempre, bene augurante, stop ai barconi libici, tra Gentiloni e Sarraj il patto anti-immigrati. Sappiamo che però la Libia è un paese molto diviso, noi riconosciamo il governo del Sarraj, c'è un altro governo che non lo riconosce, questo è il governo voluto anche dall'ONU, voluto dall'Italia, ma non voluto da altri. E quindi è chiaro che trovare un accordo e vedere questi titoli ottimistici fa ben sperare, però... non è che con una firma si risolva tutto. Tra l'altro, sul Corriere della Sera, Lorenzo Cremonesi oggi intervista Federica Mogherini. Federica Mogherini, altro rappresentante della politica estera dell'Unione Europea. Fermare gli arrivi è solo un'illusione, vanno gestiti i flussi dai paesi di partenza. La prende tra l'altro alla lontana Federica Mogherini, parla di Trump che glorifica la Brexit. È una minaccia, risponde. No, l'America non è una minaccia per l'Europa, i nostri legami sono antichi e più profondi di qualsiasi amministrazione americana. Certo, risponde in maniera secca alla domanda, anche noi sposteremo l'ambasciata a Gerusalemme? Assolutamente no. Spero però che il processo di pace in Medio Oriente possa presto essere affrontato con un coordinamento Bruxelles, Mosca, ONU, Washington. Sulla vicenda appunto della Libia, come controllare i migranti? Primo, con l'azione in mare. Il nostro addestramento della Guardia Costiera è iniziato a settembre. E comporta anche l'applicazione dei diritti umani, diritti delle donne. A ciò si aggiunge la necessità del controllo sulla frontiera verso il deserto. Per questo abbiamo lavorato in particolare con Niger, per assistere, informare, aiutare i migranti a tornare al loro paese, creando posti di lavoro con l'aiuto dell'ONU. dunque non si bloccano i flussi. Questa è la linea di Federica Mogherini. Va bene, lasciamo questa notizia di cronaca, arriviamo agli statali. Ecco il piano antiassenteismo. Oggi il Messaggero mette in prima pagina e poi l'Interno a pagina 19 queste novità. È il nuovo piano antiassenteismo. Sin dall'inizio, una delle principali promesse della riforma del pubblico impiego, da quando alla notte di Capodanno 2 anni fa ci furono la vicenda dei vigili urbani, tutti in malattia. L'idea è responsabilizzare i dipendenti più ligi a una sorta di controllo sui loro colleghi furbetti. Vabbè, tutte le novità sono all'interno del Messaggero. Ecco il piano antiassenteismo per quel che riguarda gli statali. A proposito di statali, beh, c'è questa signora che viveva a Cerreto Desi, 4.000 anime, provincia di Ancona, lavorava alle poste, ha deciso che in Madagascar si stava meglio. Aprire un resort in Madagascar è molto più bello, con tutto il rispetto, di stare a Cerreto Desi, che sarà una cittadina meravigliosa che io non conosco, ma ha scovato un sistema. Ha rubato 1 milione ai correntisti ed è andata ad acquistare e a aprire il proprio resort in Madagascar. Peccato sia stata scoperta. Ecco, questo è l'ultimo particolare. Ruba i soldi dei clienti e fugge sull'isola dei sogni. Pagina 14 di Libero. È successo, ci ha provato, è stata beccata. Devo dare due notizie in conclusione, molto importanti per le donne. Donne, due notizie che la tecnologia viene incontro a voi. Guardate qui, nasce, lo faccio vedere anche sulla pagina Facebook pubblica, se ce la fa Lorenzo Nespoli, che è entrato a riprendermi. Arriva la valigia robot. È una valigia che vi segue, immaginatevela cilindrica, insomma, che vi segue. Voi fate... porta i vestiti, seguimi, e la valigia segue, la valigia robot. E questa è la prima grande notizia per le donne, anche per gli uomini che non devono più portare la valigia alle donne. Seconda grande notizia, donne, arriva l'auto volante pronta al decollo, così lasciate libere le strade a noi maschi. A noi maschi, lo so che adesso mi massacreranno su questo. È una battuta, prendetela come tale. Vabbè, ma siamo alla carta costa, guardalo qua, sul Messaggero, l'articolo più inutile sui giornali. Giallo Melania Trump, non si vede in pubblico da 13 giorni. Ma chi se ne frega!